Siete all'ascolto di Cellulite e Celluloide, la rubrica cinematografica più importante del pianeta. In studio il critico cinematografico di Gamer, di serie televisive, di qualunque altra cosa, Gabriele Vasquez. Niola, buonasera Gabriel. Buonasera. Come va? Bene, bene, bene, bene. Mi fa piacere. Allora, come stai innanzitutto? Tutto bene? Tutto sì, bene. Qui c'è Sira vicino a te e vicino a me, che si prepara a darti filo da torcere per questa puntata senza meno importantissima di Celluloide e Celluloide. Questa settimana una puntata seria, Vasquez. Beh, molto ponderata soprattutto. Molto ponderata, sì. E ragionata. Sì. Con dei titoli ragionati. Con delle riflessioni assolutamente raffinate, anche insomma contestualizzate, direi. Beh, mi piace così, così mi piace. Allora, cosa ci aspetta al cinema questo weekend? Da ieri sono usciti, ricordiamo. Da ieri, esatto. Hanno anticipato, ormai qualche anno che anticipano il giovedì. Beh, saranno 5-6 anni, una cosa del genere. Allora, ci sono... Voglio cominciare dal film più grosso che esce questa settimana. Ecco, ti spari subito la cosa, sì, la bombetta. Sì, perché guarda che è veramente un film, posso dire... Io volevo parlare di serie TV, comunque vabbè... Importante, un film importante. Cavolo. Allora, parliamo di Captain Marvel. Che... Ah, lei, l'eroina. L'8 marzo. Allora, Captain Marvel, come dice la parola stessa, è un film dell'universo Marvel. E potrebbe sembrare, potreste avere le vostre ragioni a dire: un altro film dei supereroi Marvel. Ma attenzione, non siete stati attenti. Perché? Perché probabilmente avrete notato che negli ultimi anni tutti i grandi film americani, quelli di grande incasso, le grandi franchise, le grandi serie, hanno finalmente riconosciuto il fatto che esiste un pubblico molto disposto a vedere anche storie con protagonisti delle donne, che era una cosa che una volta si diceva: no, non le va a vedere nessuno. Invece non è vero, hanno grandissimo successo. E quindi c'è un nuovo ruolo della donna nel cinema. Può essere protagonista, può essere protagonista dei film che una volta erano destinati agli uomini. Pensate a Guerre Stellari, no? Guerre Stellari ha sempre avuto solo protagonisti maschili, invece la nuova trilogia è una protagonista femminile. Ma insomma, questo è capitato ovunque tranne nell'universo Marvel. Nonostante da 10 anni, anzi da 11 anni, i Marvel Studios facciano i film di maggiore incasso in assoluto, i più popolari, quelli di maggiore impatto sulla cultura pop, la cosa incredibile era che non era un universo al maschile, c'erano solamente uomini. Certo, qualche donna c'era, ma contava veramente poco, era marginale. Pensate che loro, no, avevano e hanno tuttora nel loro cast, nel loro universo, Scarlett Johansson, che è una delle attrici più pagate, più importanti, più riconosciute del pianeta. Ma va, in veramente? Assoluto. Sì, assoluto. Perché è brava o che Per tante cose insieme, per i film che è riuscita a fare, per i successi che ha avuto, poi anche perché è brava, sicuramente, cioè è difficile avere successo senza essere bravi. Insomma, mica tanto, guarda me. Eppure Scarlett Johansson ha un personaggio totalmente marginale. Addirittura il film in cui è più raccontato il suo personaggio, che è Vedova Nera, è un film di Capitan America. E Capitan America è interpretato da Chris Evans. Ma chi è Chris Evans? Non è nessuno. Scarlett Johansson è pagata molto di più, è molto più importante, eppure è secondaria a un uomo. E non ha un film che porti il suo nome. Quando invece, come sapete, nell'universo Marvel, no, ogni eroe ha il film col suo nome dedicato a sé, e poi ci sono i film collettivi. Ed è una cosa incredibile. Capitan Marvel arriva a cambiare tutto questo. Chiaramente questo era diventato un grosso problema per la Marvel, cioè la Disney, perché la Disney è proprietaria della Marvel. Era diventato un grosso problema. Non è il contrario, la Marvel è proprietaria di... No, la Disney che mangia. E lo dovevano risolvere, e l'hanno risolto con una forza, proprio come io credo solo gli americani possono fare, con questa decisione incredibile. Captain Marvel, non vi faccio spoiler, però è un film che si è ambientato negli anni 90, nel 1996. Quindi rivede tutta la storia dell'universo Marvel al cinema, quella che era iniziata con Iron Man, Nick Fury, Vendicatori, tutta questa grande storia, la rivede dall'inizio, mettendo al centro lei come l'origine di tutto, è la cosa più importante in assoluto. E questo sempre non è uno spoiler, perché è una mia supposizione, non si vede nulla di tutto ciò nel film, mi è sembrato proprio di capire che nel prossimo film, quello grande dei Vendicatori, che un po' chiuderà tutto, lei sarà il personaggio più importante in assoluto. Ma che superpoteri ha? Allora, è una... cercherò di, veramente di non fare spoiler, perché è una storia, devo dire, sui generis. Solitamente noi siamo abituati che tu vedi la persona normale, poi nel film prende i poteri, sconfigge un nemico e ci siamo, e questo è il film. Invece qua è un po' diverso. Inizia che lei già è in un'avventura, già dei poteri, noi non capiamo bene perché, chi è, cos'è. Ah. Poi... è un alieno lei, viene sballottata sulla Terra in seguito a uno scontro e scopre di avere dei ricordi in questo pianeta che lei non conosce. Di ricordi di lei senza poteri. Quindi no, cominciamo, lei deve mettere a posto perché non ricordo queste cose, ogni tanto ho dei flash, perché c'era un periodo che non avevo questi poteri, e comincia a capire cosa succede. Con lei, molto interessante, ci sta un giovane membro dei servizi governativi americani, che è Shield. Esatto, che è Nick Fury, giovane. Ed è, aspetta, è Samuel L. Jackson ringiovanito al digitale. Per tutto il film, per tutto il film lui è ringiovanito al digitale. Hanno speso 6 miliardi. È una roba incredibile. Infatti, posso dire, è impressionante. Funziona bene. Non benissimo, perché su tutto un film intero ogni tanto ti rendi conto che le espressioni sono un po' rigide rispetto a quella. Però lo stesso è una cosa incredibile. In tantissimi punti ti dimentichi che ha ringiovanito, scusate, artificialmente. Come fanno? Il corpo è il suo, cioè lui recitava sul serio, recitava normale, normalmente, e poi dopo, in post-produzione, fanno questo effetto che gli ringiovaniscono il volto. Veramente impressionante, eh? Vabbè, ma ce l'ho pure io sul telefonino. ci vuole? Si chiama filtro bellezza. Scusa. Cioè, l'ho provato, mi ha detto no, guarda, vai in tilt, a te serve l'upgrade da, a pagamento, da 500 euro. Aspetta. Allora, gli Skrull sono i cattivi. E tu sei una Kree. Una razza di nobili guerrieri. Eroi. Eroi nobili guerrieri. Mi piacciono queste colonne sonore pomposissime. È quel giorno che l'hai quasi persa. Ti abbiamo trovato, priva di memoria. Ti abbiamo accolto tra noi. Per darti una vita più longeva, più forte, superiore. Sei rinata. Continuo ad avere dei ricordi. Qualcosa nel mio passato è la chiave di tutto questo. Lo sai pilotare? Vediamo. Devi rispondere solo sì o no. Sì. Mi piacerebbe sapere cosa sei veramente. Credo di aver vissuto qui. Cos'è che non mi dice? Hai fatti di progressi, ma non sei forte quanto pensi. Questa guerra è solo l'inizio. Non combatterò. Ma non c'è Scarlett Johansson. Non c'è, infatti vorrei essere Scarlett, anzi stare nella stanza di Scarlett Johansson quando ha scoperto che c'era questo film e non c'era lei. Non mi avete chiamato. Sei stato un brutto quarto d'ora per il suo agente. Com'è questo film? Anzitutto, allora, è un film, chiaramente, no, vi ho spiegato più o meno qual è il contesto, e quindi è un film molto femminista, anche proprio nella trama, nella maniera in cui lei scopre il suo passato. Ci sono vari temi tipici del cinema femminista moderno. Secondo me lo fa in maniera un po' smaccata, non è proprio raffinatissimo, ecco, diciamo che la Marvel ha fatto di meglio, ha saputo scrivere di meglio. Il film poi è godibilissimo, perché se avete visto i film dei Marvel Studios sapete che loro non li sanno fare proprio brutti, cioè comunque alla fine sono godibilissimi, quindi ve lo godete. Secondo me, quanto avranno investito? No, per carità, secondo me, guarda, è fatto un po' male questo femminismo così smaccato, così proprio evidente, che non è. E soprattutto, questo lo posso dire con un certo margine di decisione, sono fatti proprio male questo effetto nostalgia anni 90. Cioè, la nostalgia anni 90 è gestita male, è proprio fatta che lo devono sottolineare ogni 5 minuti, ci mettono i brani famosi anni 90 un po' a casaccio, non li mettono che ci stanno bene, li mettono un po' per metterli. fanno dei riferimenti alle serie TV, ai programmi, ai film anni 90, anche in momenti che non servirebbe, quindi tu senti che è un po' forzato, insomma, quello non mi è piaciuto. Però detto ci questo, sta, il filmone Sira. Ci sta. Detto questo, il filmone ci sta, ti arrendi di fronte a questi prodotti. Blockbusteroni. Sì. Pure ma, se non va c'è benone. Più Blockbuster. È morta Blockbuster, no? È chiuso ieri l'ultimo Blockbuster in Australia. Sto e lei non solo, lei quando cade sulla terra cade dentro un Blockbuster. Lo vedi? Io sto sul pezzo, sempre. È una questione di istinto. Sempre. È animalesco il mio, capisci? È animalesco. Allora, mentre cocaine, la vera storia di White Boy Rich. Allora, cocaine è appunto, come dice il titolo, una vera storia. Questo lo sapete che il cinema americano ormai racconta quasi solo storie vere, abbastanza clamorose. La storia di questo ragazzino minorenne che era diventato uno degli spacciatori più fortunati della sua zona e che fu avvicinato dall'FBI per diventare un informatore. Chiaramente questa era tutta una cosa paradossale, perché tu ti ritrovi con un minorenne che deve fare l'informatore per te presso una gang, lui è bianco, presso una gang di neri. Per questo si chiama White Boy Rick, loro lo chiamano White Boy. E poi, insomma, non vi anticipo, però il caso di cronaca è clamoroso, perché poi l'FBI non si è comportato benissimo. Per cui, insomma, sono successe una serie di cose particolari. No, entriamo nel... Questo film risponde un po'... appartiene a quella categoria di film tipo The Wolf of Wall Street, Pain and Gain, Gold, I Trafficanti. Quei film che sono tratti da storie vere e che sono incredibili. Cioè accadono delle cose e tu dici, ma davvero è andata così? Come Aitonia, per dire, no? Suonano paradossali, sono raccontati per essere paradossali. Mi piacciono molto questi film, ma questo... No, questo devo dire non mi è piaciuto. Seguiamolo, sì. Sì. Via. Boh, via, niente. Via. Oh, i villeggianti. No, ecco. Valeria no. Bruni Tedeschi. Anche no, questo cast. Proprio anche no. Valeria no. Bruni Tedeschi, Yolanda Moreau e Noemie Lvovsky. Prego. La trama. Già, questo anche no. Io tra l'altro l'ho visto al Festival di Venezia, quindi ho un po', la trama è un po' offuscata nella mia mente. Comunque, storia altoborghese di case di vacanza altoborghesi con problemi altoborghesi che non è diretta bene, perché tutto questo poteva essere anche ampiamente tollerabile. Non ho problemi detto, con questo. Quando vieni a fare il film nelle case mie e dei miei amici, cioè, fammi leggere prima la sceneggiatura. Porca miseria. Oh, ci fanno i complimenti da Facebook. Fanno bene. Inquadrano voi due, non me. Cioè, c'è una certa bellezza. Cioè, inquadro il video, il filmato, la diretta e inquadra voi due. C'è una certa, un certo fascino. Il Carillon. Non l'ho visto. Non l'hai visto. Il Colpevole. Ah, non è male. Guarda. No, non è male, no, non è male. No. Danimarca, già. No, adesso ti dico la trama. Già parte male. No, ti dico la trama. Già parte male. Ti dico la trama. Allora, il protagonista è un poliziotto che è stato sbattuto a fare il centralinista della polizia, perché c'è qualcosa che non vi dico e scopriremo lungo il film, no? Ha fatto qualcosa che non doveva fare e è stato sbattuto a fare il centralinista. Però lui è uno d'azione. Per cui riceve queste chiamate che lui dovrebbe passare agli altri. Però gli viene sempre da intervenire, da prendere decisioni. E questo è un problema. Ad un certo punto riceve una chiamata clamorosa. Cioè di una. Cioè lui, pronto? E questa comincia a dire: ciao cara, sì, vuoi andare a dormire? Va bene, io sono in macchina, buonanotte. Lui fa: ha sbagliato numero, cos'è? E insomma, parlando capisce che questa persona ha fatto il numero giusto, ma non può far capire alle persone che ha intorno a sé che sta parlando con la polizia. E quindi lui comincia a dirgli: mi dica sì se è in pericolo. Sì. Mi dica sì se è stata sequestrata. Sì. Sì. E da qui parte un'avventura che noi viviamo con lui là nel centralino. Lui non uscirà mai dal centralino. Ah, quei film fatti a basso costo. Il costo è veramente basso. Però le idee ci stanno, cioè chiama lì, chiama là, dove siete finiti, rintracciamo la chiamata, allora chiamo un'altra persona, poi saltano fuori certe cose, cioè ne saltano fuori di cose. Beh, e per poi fare chiama... un film in una sola stanza devi avere una immaginazione, devi essere bravo a scrivere. No, ma poi lui comincia a chiamare i poliziotti che stanno intervenendo, no? E loro dicono: cosa c'è, questi sono fatti? No, tu non devi immischiarti. Lui gli dice: ma che vedete, dove fate? Perché poi lui era uno forte sul campo, però ha fatto certe cose che non è meglio dire. Fatti in piccetti. Sì, non so, poi questo chiaramente diventerà un problema. Lo chiamerà il superiore, gli dirà: che stai facendo? Ti abbiamo messo là perché tu hai fatto una cosa. Insomma, ne succedono veramente tante di cose. E il film dura esattamente quanto la storia, no? E dura, se non sbaglio, 1:40. Ed è un'ora e 40 di lui che cerca di intervenire in questa situazione clamorosa. Un po' di messaggi tra i tanti. Ora c'è anche lo spray nasale alla chetamina. Altro che. Poi vediamo qualcun altro. Vorrei chiedere a Gabriele se ha visto la... prima gli ascoltatori, sì. Va bene. Prima non la precedenza. L'educazione. Fremo. Un po' di buona creanza. Vorrei chiedere a Gabriele se ha visto la versione spagnola di Perfetti Sconosciuti. E in caso cosa ne pensa? Ha toccato un tasto dolente perché ce l'ho. Perché io ho comprato il DVD, ma ancora non l'ho visto, ce lo devo vedere. Sono anch'io molto curioso, perché di Alex de la Iglesia, che è uno che a me piace molto, insomma, è uno forte. Lo devo fare, prometto. Mentre mi dicono che il blockbuster del Torrino resiste. Saluti Gabriele e Paolo. Ah, però, vedi? Mi ha mandato anche la foto? No. La Google Maps. Qua. Si avvicina alla posta. Ma è proprio Google. Scusate, è proprio Blockbuster. Cioè quel brand lì. Vieni a vedere. No, viene, ci credo, mi fido. Vieni a vedere. Ma mi fido. Avrà chiuso 100 anni fa, però non, cioè, c'è ancora tutta la scritta Blockbuster, Blockbuster. Ah, ma ha chiuso o aperto? Cioè, qui è chiuso. Su Google Maps è chiuso. Cioè, attenzione. Ci sono le serrande abbassate. Però magari è estate. Spesso fanno d'estate le foto di Google Maps. Non so che cosa dirti, però vabbè. Qui mi ha mandato proprio la Google Maps. Vale, insomma, un sacco di complimenti. Grazie davvero a tutti, fanno benissimo. Mentre, bentornato presidente, il paese ha bisogno di nuovo di Peppino Garibaldi. È il sequel, per l'appunto, di Benvenuto Presidente, il film in cui... Io te l'avevo detto, però, con questo famo i sordi sto giro, tu non mi hai voluto dar retta. Facciamo il sequel di... Benvenuto presidente, qui è bentornato presidente. Però i diritti ce l'avevano loro. Io mi ero informato, tu me l'hai detto, io mi ero informato. I diritti giustamente ce l'hanno loro che hanno fatto il primo e hanno detto no, lo facciamo noi. Secondo me, posso dire? Secondo me questa trasmissione che è ascoltata da tutti, loro l'hanno sentita e hanno detto fammolo noi. Ma tu gli metti via la testa di cavallo sotto. X-Men Dark Phoenix. Ma qui siamo avantissimo. No, sto enucleando. Per esempio Netflix porta in TV 100 anni di solitudine, Gabriel García, esatto. Márquez, una serie bellissima. Versione integrale in spagnolo. Cavolo, mazza. Mentre l'hai vista la nuova serie televisiva Il Nome della Rosa, la prima puntata? Com'è? Sì. Allora, ho letto molti che sono scontenti. Non ho avuto modo io. Allora, devo dire, stranamente per le serie TV, la prima puntata non è quella che ti acchiappa. Cioè io quando ho visto la prima puntata ho pensato non va bene, no, così non va bene, perché già mi sto annoiando e non va bene. Invece la seconda, quando cominciano ad arrivare i morti, comincia un po' di cose, allora vedi che comincia a andare, comincia a marciare bene, è giusto. Lui è molto giusto, lui John Turturro, che fa Guglielmo da Baskerville, perché è molto diverso da Sean Connery. Sean Connery era comunque un omone potente, insomma, era uno proprio uno grosso, e poi nell'immaginario collettivo è Bond, anche se chiaramente era col barbone, quindi era diverso, però insomma è un super uomo nell'immaginario collettivo. Mentre invece John Turturro è molto più adatto a questa serie, perché a differenza del film, la serie esplorerà altri aspetti che sono nel libro, che ci sono. Per esempio, una cosa che non c'era nel film è che in quella abbazia in cui ci sono tutti i morti, su cui indaga questo monaco francescano, si sta per tenere un congresso clamoroso della Chiesa, ma una roba veramente clamorosa, in cui si sfideranno proprio lui, Guglielmo da Baskerville, con uno mandato dalla Chiesa sul tema del pauperismo. Cioè lui è un francescano, quindi dice la Chiesa deve abbandonare tutti i suoi soldi, deve abbandonare gli ori, i tesori, mentre invece la Chiesa non vuole. Per risolvere questa disputa interna fanno un dibattito a cui accorrono tutti. Però che succede? In quell'abbazia dove sta per avvenire questo mega dibattito ci sono i morti e quindi lui deve indagare. Era questo lo spunto del libro. Nel film l'hanno levato perché era complicato ridurlo poi in un film tutto quanto. La serie lo esplorerà, infatti c'è il cattivo della serie che è Rupert Everett, che è l'altro che dibatte con lui, che nelle prime due puntate ancora non è arrivato all'abbazia ma sta arrivando. La seconda puntata mi ha fatto sperare meglio. Certo, è una serie che è girata con uno stile giovane molto vecchio, cioè lo stile giovane di una volta. Quindi non è proprio, diciamo che è una serie modernina, non modernissima. Certo, capito. Non è la Rai, cioè non, in realtà è una cosa da Rai, ma non è lo stile Rai che disprezziamo giustamente. È una via di mezzo, diciamo. Io sono mediamente soddisfatto per il momento. Mediamente, guarda. Mentre inizia a muoversi seriamente Prime Video, perché sta sparando sulle sue piattaforme e insomma alcune mappe della Terra di Mezzo, perché come forse qualcuno saprà, si è imbarcata in questa ira di Dio del Signore degli Anelli, la serie televisiva, sì. O meglio la serie web. Non hanno detto cosa, che periodo della grande cosa affronteranno. E con queste mappe i più nerd del Signore degli Anelli cominciano a capire: ah, ma se c'è quello, allora quello non era stato ancora conquistato, cioè, quindi probabilmente roba per veramente livelli avanzati, diciamo. Però poi uno li legge, no? Si fida, perché poi vai a sapere. Insomma, Amazon si sta muovendo in maniera pesante. Sì, questa sarà una produzione veramente importante, questa sarà, cavolo, sicuramente. Ne fa poche, ma quando le fa mina, sì, vero. Loro in realtà si muovono Jack molto Ryan è bestiale. Loro ho visto ancora un'altra volta, per la terza volta che vedo Jack si Ryan. Muovono molto più sul cinema. Loro fanno molti più film di Netflix e li mandano nelle sale tradizionalmente, insomma, al momento stanno investendo più su quello, chissà per quale ragione, però insomma la loro strategia è così per il momento. Va bene, andiamo avanti con le uscite cinematografiche di questa settimana. C'è tempo, regia di Walter Veltroni. Eccola lì. Allora. Adesso fa il critico che critica la sinistra. È una persona rispettabile come Walter Veltroni. Allora. Walter. Allora. Dai. Questo non è. Dai. No, perché. Certo, perché. Mica. Critichiamo. Dai. Pensi che ho paura dei poteri. Allora. È il terzo. Adesso dice bellissimo. Cavolo, un genio del cinema. Vorrei dire grazie a Walter. Allora, è il terzo film di Walter Veltroni. È il primo, però, di finzione. Gli altri due erano dei documentari. Allora, a me già i documentari non mi erano piaciuti per niente, perché ha un tono che non mi piace per nulla. Prevenuto. Autoindulgente. Però dico, vabbè, vediamolo questo film. Tu hai visto i cartelloni? No, i cartelloni già sono un colpo allucinante, cioè c'è una quantità di cose sbagliate in quei cartelloni che mi hanno ammazzato proprio. Comunque vabbè, vado a vederlo, un po' depresso, ed è molto oltre ogni più peggiore aspettativa, cioè è una roba. Allora, io solitamente quando vado a vedere i film, siccome poi non ricordo nulla, prendo degli appuntini, mi scrivo delle cose perché sennò poi mi dimentico. Ho preso 5 pagine di appunti di cose che non ho sopportato, che ogni volta dicevo: no, aspetta, questa me la devo scrivere perché questa è clamorosa. 5 pagine alla fine. È un campionario di assurdità. Allora, cominciamo. Lui chi è? Lui è Stefano Fresi, l'attore molto corpulento di Smetto Quando Voglio, che di lavoro fa l'osservatore di arcobaleni. Ah, questo è la sua professione. Ma è una cosa poetica, è bellissima. Certo. L'osservatore è stupenda. Allora, l'osservatore di arcobaleni. L'osservatore di arcobaleni scopre di avere un fratello. Solo un cuore tenero poteva pensare una cosa così bella. Un mini pony. Un orsetto del cuore. Una trama partorita dagli orsetti del cuore. Allora, scopre di avere un fratello piccolo, fratello di 10 anni, che lui non sapeva di avere. Questo fratello di 10 anni è straricco, perché i genitori chiaramente sono straricchi, e vive in questa casa dove lui guarda i film francesi in bianco e nero. Questa è la cosa. I genitori muoiono. Così, è questo. Ma questo è uno scenario in cui tutti ci ritroviamo. Allora, i genitori muoiono e lo affidano, quindi viene affidato al fratello. E loro partono a fare un viaggio sul maggiolone vecchio. Certo. Allora, guarda, ero in dubbio se era la Renault 4 due cavalli o il maggiolone. Partono per fare questo viaggio dove lui è un bambinone, l'adulto, no? Invece il bambino è molto sapiente. Prima tappa nella casa della ex di lui. La ex di lui, che è una molto sofisticata, chiaramente, la sera loro si mettono a guardare la televisione e fin qui niente di male. Cosa guardano in televisione? Non guardano neanche più i film francesi, perché sono oltre i film francesi. Cioè, i francesi sono da bambini, guardano, chiaramente, siamo oltre. Guardano, e ti giuro è vero, cioè c'è l'inquadratura di loro che dopo cena si mettono a guardare la TV e guardano interviste anni 70 a Ettore Scola e Marcello Mastroianni. Cioè, questo è quello che guardano in TV, la sera. Ma il motivo? Niente, non c'è, non esiste motivo. Cioè, così. Così è quello che guardiamo, così. Tu che ti guardi la sera. Intervista del grande Ettore Scola, peraltro. Cose fosse senso. Il viaggio va avanti, loro hanno un obiettivo in questo viaggio, chiaramente. C'è tutto un convegno di arcobalenisti. Lui incontrerà anche la sua cantante preferita, che cantante preferita di cui sa tutte le canzoni, ma lei fa solo cover. Quindi io non ho capito questa cosa. Lei fa solo cover, ma lui conosce tutte le canzoni sue, ma non sono sue. Sono tipo dei Mattia Bazar. Certo. Però, vabbè, incontrano la sua cantante preferita. verità. Chiaramente lui è anche un po' innamoratone di questa qua. Ci sarà un po' del tenero perché lei sta in giro con la figlia che ha la stessa età. Ma pensa, ecco, che talvolta la casualità, sì, il destino. Non vi sto a riassumere le scene tenere tra i due bambini perché volevo vomitare. Cioè, mi fa stare peggio di queste scene tenere di amore. Ma lui invece, Stefano Fresi, cerca un po' invece un po' più acchiappesco con questa. Che la sera si ubriaca, scenona di lei ubriaca, la sera si ubriaca, ma manco quello, cioè non ci sarà manco il sesso, non riusciranno niente, a concludere. Niente di niente. Quindi un neanche bacio, un casto bacio? Ma guarda, ma nemmeno, una roba sulla guancia. Sì, vabbè, ma avrà uno scopo sto film? Aspetta, c'è un momento alta, ci sono due momenti veramente che io ho detto, adesso mi alzo, non l'ho fatto, però ho detto, adesso mi alzo. Adesso lo faccio. Lui a un certo punto, il bambino si ferma che deve fare pipì, lo fa nelle frasche così e cose. Nelle frasche dove aver fatto pipì trova una palla, un pallone super santo, tra l'altro nuovissimo, cioè proprio nuovo di pacca, gonfio, bello. Lo trova dal nulla, senza una ragione apparente, comincia a fare dei palleggi. Aspetta, comincia a fare dei palleggi e poi lo tira in aria e il pallone non scende più. Non scende più. Il bambino lo vede. Hanno sbagliato l'inquadratura. Ah, no, no, no, che il bambino lo guarda, guarda e non scende. Siamo lì, no? Aspettiamo e non scende. E io già penso, una metafora. Esatto, e io già penso, Dio santo, la metafora che, cioè una metafora che poi lo dico senza, io non ho capito, però ho capito che è una metafora, cioè, Dio santo il metaforone. Come se non bastasse, cioè perché non è abbastanza evidente che questo è un metaforone, il bambino continua a guardare e dice "Non scende più". Vabbè, dai. E la seconda scena che ho detto, no, adesso per davvero me ne vado, adesso basta, adesso me ne vado. Però ha resistito perché sei un professionista. Che sono professionista, certo. È quando c'è un momento di difficoltà, chiaramente, no? Perché c'è sempre queste cose, c'è sempre un momento un po' più duro, si il momento di difficoltà, ruota, eccetera. Loro si fanno forza a vicenda, parte una musica tenera, tenerissima, di chitarra acustica molto tenera. E al rallentatore Stefano Fresi prende il bambino in braccio e fanno il tuffo a bomba in piscina al rallentatore. Beh, il pallone che non scende più, il loro che si tuffano. Il film si chiude col pallone che scende. Te lo dico. In un'altra città proprio. Da un'altra parte. Siamo proprio alle metafore sparate. Madonna. E come sta andando al box office? Non è neanche tra i primi 10. Tra i 10 no, perché non è che c'ha attori spinti. Questa è una bellissima favola d'amore. È raccapricciante. Tra due fratelli che si ritrovano e che finalmente trovano, oltre ad essere fratelli, l'amicizia. E nell'amicizia ci sono queste metafore perché loro sono dei poeti. E quindi sognano. Ma guarda con l'occhio chiusa, sognano. Guarda, in effetti adesso che lo leggi così, non è sbagliato. Guarda, io direi che facciamo così. Settimana prossima tu te lo vedi e mi dai il tuo parere. Sto cavolo. Questo cavolo. Porco cane. Ma che sei matto? Mamma mia. È un film ispirato a Pieraccioni, ma ispirato. Senti, devi fare una domanda, Sira. Sì, prego. Era una domanda due ore fa. Vabbè, ci facciamo travolgere film noi. A budget piccino, in una sola stanza. Sì. Era una domanda tipo quiz per te. Sì. Qual è il più importante film realizzato in una sola stanza? Ti posso fare un nome? Una sola stanza, quindi non vale tipo una sola casa, non vale? No, no, okay. È in un ambiente. Vabbè, no, non mi ricordo adesso se è proprio un'unica stanza, però quasi. Io stavo pensando per esempio alla morte della fanciulla. Che no, è un film. Non andiamo indietro nel tempo. Grandissimo attore francese, basta. Grandissimo attore. Vabbè, ma diglielo in privato. No, sì, no, lo voglio mettere in difficoltà, appunto. Ho capito, ma siamo in diretta, dobbiamo fare la trasmissione. Dai, Polanski. Depardieu. Che lui viene arrestato. Ah, certo. Bravo. Certo. Sì, una pura formalità. Bravo. Però posso dire, voglio dire due cose. Voglio dire due cose. Non è una sola stanza. Non è una sola stanza. Comunque, come cosa. E quello che ho detto io, La morte della fanciulla, è un film di Roman Polanski. Ta-dam! Che abbinamento. È proprio Mi scrivono che Blockbuster del Torino è aperto. Attenzione. andiamo a chiuderlo. Mi scrivono ancora, confermo l'esistenza del Blockbuster, altri me lo scrivono, è aperto ed è vicinissimo ad una pasticceria che fa un'ottima Sacher Torte. Ma insomma, ma sarebbe tutto, comunque sarebbe da fare un'intervista a questi del Blockbuster per capire perché gli altri chiudono e voi no. Ma chi li paga? Se il Blockbuster ha chiuso, chi li paga? No, secondo me loro si mantengono, cioè il momento in cui chiude, però io posso continuare a usare il brand, io vado col mio business, però non devo cambiare insegna, secondo me è quello il punto. Ah, potrebbe pure essere. Cioè io comunque ho acquistato i diritti quando c'era il franchise. Ma sono sei facciate, sono sei vetrine, cioè deve essere enorme. Come si mantengono? Affitta, c'è gente che affitta DVD. Mica sono tutti al come Torrino. Te che scarichi. Al Torrino. E scarichi i film pirata, eh? No, oh. Posso dire. Riciclano denaro sporco. No, te l'ho detto. Non è vero, stiamo facendo delle battute, non è vero. Ci si arrestano qui. Ci si arrestano. Oppure io ho pensato ai film Osè, ma Blockbuster non è film Osè. No, assolutamente no. Per cui neanche quello. No, potrebbe essere che nell'ultimo periodo Blockbuster lavorava molto con i videogiochi. Può essere che vendono anche i videogiochi, perché è una cosa che va molto. Beh, vendono, affittano, ormai. Ma anche vendono, quindi frega ormai. Cioè, nel momento in cui muore Blockbuster sede centrale, tu sei libero di fare quello che vuoi. Cioè, nessuno più ti dirà come era con i franchise, e no, devi fare questo, devi fare quest'altro. Certo, certo. Diventa, io sono proprietario della mia attività, mi tengo il marchio, perché non c'è più nessuno che può venire a dirmi devi levare. Che voi siete morti. Certo. Vabbè, insomma, comunque esiste. Allora, altri film questa settimana. C'è Asterix. Allora, c'è Asterix. Allora, ma tu puoi dire ciò che vuoi, eh. Sì, no, ma c'è Asterix, che è un film, devo dire, questo non è male, io, i film recenti di Asterix non mi piacevano, questo invece è un cartone molto carino, e non è più disegnato in 2D come quelli molto noti degli anni 60-80, ma è in computer grafica, inventa una storia totalmente originale, quindi non è tratto dagli albi di Asterix, ed è un po' verso la fine, fa anche un po' cinema dei supereroi, cioè un po' di super cattivi, un pochino lo fa, strizza l'occhio da quella parte, insomma io l'ho trovato assolutamente godibile e carino. Sì, certo, voi penserete, sì, ma gli altri erano un'altra cosa. Un po' sì, però è carino. Mi dicono che c'è una nuova serie in arrivo con Paola Cortellesi, che a me piace tantissimo. Si chiama Petra ed è adatta ai libri di Petra Delicado, che sono dei libri, se non sbaglio, sudamericani. Comunque lei è un commissario, sono indagini, è prodotta da Cattleya sono quelli di Sky. Gomorra, esatto, sono Gomorra, romanzo criminale, insomma, li sanno fare. Ne parliamo, cioè, proprio avanti, nel senso hanno iniziato ora a girare, quindi hai voglia proprio. Però ecco, è arrivata ora la notizia che la fanno. Beh, tra un po' esce Il Trono di Spade, e l'ultima stagione definitiva. Sì, tutti contenti, attesa. Io non riesco. Ne parlate, bellissimo. Ricordi? Ne parlavo appena uscì. Certo, io lo seguo dalla prima stagione, bellissimo. Quanti anni fa? 10, 12? Poi credo 10, o 10 o 9. Sono 7 stagioni, quindi 7 stagioni, ma loro hanno saltato alcune annate, insomma. Certo, però 10 anni, noi stavamo addirittura da altre parti. Può essere. E può ne parlammo, io ti dissi: no, guarda, io ho provato a vederla, non ce la faccio proprio. Ma no, è bellissima. È pesante. Poi si vedono le sise. A me mi imbarazzo. Io non l'ho mai seguito. Poi, come ho visto le prime due serie, poi me lo sono visto tutto insieme. Bello. Perché hai visto le sise? No, vabbè, a me. Vabbè. Altro da dire, Gabriele? Allora, no, c'è un film in realtà molto importante, oh. Che è Gloria Bell. Gloria Bell è un film che consiglio. Fammi parlare. Mamma mia. Kusama? No. Gloria Bell è un film che io consiglio a tutti. Nel senso che è un film assolutamente per tutti. È il remake americano di un film cileno. Già il film cileno era molto bello. No, era un film molto bello. Addirittura talmente bello che il cineasta che fece quel film cileno, che si chiama Sebastian Lelio, poi è riuscito a fare il salto e andare a fare il cinema europeo. Il suo ultimo film di Sebastian Lelio è Disobedience, che è un film con Rachel Weisz e Rachel McAdams. Quindi è un film a produzione europea, il che vuol dire che proprio no, è stato preso dal cinema più importante, quello cileno chiaramente è un buon cinema ma non importante come quello europeo. Dicevo, Gloria, l'originale, era molto bello. Succede che questo film, Gloria, sfonda in America, sfonda nel circuito chiaramente di nicchia, perché in America nessuno vede i film che non siano americani, però insomma diciamo che nell'industria del cinema americano piace. Julianne Moore si innamora del film, dice questo film è bellissimo, incontra Sebastian Lelio, il regista, e gli dice: certo, che bel film che hai fatto, quanto mi piacerebbe farlo io, mi piacerebbe un sacco. E lui dice: fermi tutti, lo fai te, lo dirigo io, lo rifaccio senza problemi. E l'ha rifatto lui. Cioè lui stesso ha rifatto il suo film in America con Julianne Moore protagonista, con anche John Turturro nel ruolo di Spalla. Com'è anzitutto? Se avete visto l'originale, questo è quasi identico. Cambiano le interpretazioni, ovviamente, che sono altri attori, e cambia la colonna sonora, che è molto bella, mi piace moltissimo, veramente tanto, e quindi gli dà un tono più sognante, che secondo me ne beneficia, insomma. Però per il resto la storia è sempre quella. Di cosa stiamo parlando? Del film, che capisco che la sinossi sulla carta può sembrare un po' noiosa, nel senso che è la storia di una donna di quasi 60 anni, infatti Julianne Moore è un filo invecchiata, un pochino, di quasi 60 anni, che non ha più il marito, è sola, ma vuole cercare ancora, ha voglia di continuare a fare una vita, insomma, piena di emozioni, piena di storie, e frequenta dei posti abbastanza squalliducci, della specie di discoteche per persone della sua età, che non è proprio il massimo dello splendore. Incontra John Turturro lì, e John Turturro ha una vita allucinante, e lei viene coinvolta in questa vita assurda e fa una specie di vita da quindicenne, perché questa è una storia d'amore, la loro, che sembra di quindicenni, un po' immatura, lui non gli dice tutto, la molla in mezzo alla strada, la madre la deve andare a riprendere, è tutto stranissimo, ed è molto bello nel film come lei vive queste cose, molto molto bello. Io mi ero innamorato del film originale e questo è assolutamente a livello, quindi ve lo consiglio veramente a tutti. È proprio quei film che tu, quando hai finito, dici: ho visto un bel film, ah, che bel film. E non solo, pensa, l'originale, mo ti racconto questo aneddoto. Io ero, lo vidi al Festival di Berlino, ed era la prima mondiale, nessuno l'aveva visto prima, quindi non si sapeva che c'era nel film, che si chiamava Gloria e basta. Alla fine di questo film, la protagonista ovviamente si chiama Gloria, in questa sala molto grande in cui c'erano giornalisti e critici di tutto il mondo, c'è una scena verso la fine in cui parte Gloria di Umberto Tozzi, la versione latina, il remake, la cover che fecero. Sai che me lo avevi detto già? No, aspetta, succede questa cosa, parte Gloria e non vi sto a spiegare perché non mi voglio fare spoiler, però è un momento fondamentale, cioè tu quando parte la canzone capisci, questo è il momento più importante di tutto il film, e questa cosa comincia a far ridere tutti gli italiani. Io sento nella sala risate a grappolo, ma anch'io ridevo perché mi sembra assurdo. In questo film americano c'è Gloria versione americana, c'era anche una versione inglese della canzone cantata da Tozzi. No, da una donna. Ammazza, chi è? Questo non lo so. Però quindi è da vedere quella. Solo per la versione americana di Gloria. Però guarda, io non ho mai amato Gloria di Umberto Tozzi. Da quando ho visto sto film sono in fissa con la canzone, ecco, perché è legata alle cose del film, è bellissima. Vabbè, la chiudiamo qui? No, c'è un ultimissimo film. Allora ti aggiorno, perché sta per tornare Franco Nero sugli schermi cinematografici come magistrato. Ed è subito sera il film. Di chi è sto film? Aspetta. No, c'ho molti. Claudio Insegno. Ecco, lì lo sapevo, vedi? Niente. Lo facevo bene. Niente. Potrei anche non vederlo. Mentre c'è. Sta per uscire un documentario su Diabolik. Sì, vero. Abbiamo intervistato, se non ricordo male, Giovanni Villani. Ha intervistato proprio. Sempre sul pezzo, Giancarlo Soldi. Non vorrei dire una cavolata, ma l'abbiamo avuto qui la scorsa settimana. Ottimo. Questo ragazzo mi è sempre sul pezzo. È uno forte. Ah, guarda. Esce un altro film questa settimana che si chiama Non sposate le mie figlie 2. Ah, l'ho sentito. Il primo era fantastico. Esatto. Il primo era molto carino. Questo, voglio dirlo subito, a me non è piaciuto particolarmente, ma secondo me a te potrebbe piacere. Ho già capito, fa schifo. No, guarda, a me non è piaciuto, ma secondo me a te potrebbe Questa cosa è equivoca, perché in che senso, scusami? Nel senso che secondo me è un film nelle sue corde. Tu non l'hai visto il primo, Non sposate le mie figlie? No. Era no. Quel film, ricordiamo cos'era, in cui c'è Christian Clavier che fa una francese abbiente, no? Una persona molto abbiente che ha quattro figlie femmine e ognuna si mette con un immigrato di diversa nazionalità. Sì. Ci sta l'israeliano, ci sta l'algerino, cioè... ci sta il cinese e l'ultima, che lui è disperato, con un ivoriano, quindi proprio nero. Lui è molto razzista, quindi è disperato da questa cosa, si trova a dover interagire con questi, i genitori di questi, ed è per lui una tragedia, chiaramente è una commedia, quindi andrà a finire tutto quanto bene. Era molto divertente, specialmente perché c'era un attore fantastico, si chiama Pascal Zonzi, che faceva il padre, il giocatore di calcio, no, della Roma. chiamava come il giocatore di calcio, però è questo attore che faceva il padre del fidanzato di colore, il padre ivoriano, che è un attorone ivoriano africano, ma da morire da ridere, fortissimo, e loro facevano questi duetti fantastici. Questo secondo film, questo sequel, riprende le fila, ci sono, hanno molto più spazio i mariti, quelli che ormai sono diventati dei mariti, i quattro mariti che dovranno integrarsi in Francia e hanno fatica, e a casa del, invece del padre, loro arriverà un altro, un migrante questa volta, un migrante musulmano che lui teme sia in realtà un attentatore. Il film secondo me è un pochino più sgonfio, però secondo me è il tipo di film che a te piacciono. Sì, che poi nel primo film anche le religioni erano tutte diverse, c'era uno era ebreo, l'altro era musulmano, l'altro non mi ricordo, era forse cristiano, sì, non mi ricordo, cattolico, insomma, veramente divertentissimo. Oh, mi conferma Giovanni Villani, cioè Raimondo, perché sai la coppia con fanno Sandra e Raimondo. No, no, te lo dico, mi conferma che... Aspetta, che cavolo ha scritto? Mannaggia. Confermo, Diabolic sono io, non è niente male. E c'è attenzione, anche il video ci manda, vedi com'è prezioso e preciso. Costosi se già ti hanno spiegato che è una parola desueta. Vabbè. Quando partite, ecco, sentito ora l'annuncio. Il precedente film di Asterix non era male, ma la settima serie del Trono di Spade... Solo a me è sembrata assurda. Eh no, lo è, c'hai ragione da vendere. Però dobbiamo chiuderla sta storia, no? Cioè, adesso è il momento di tirare le fila di tutte. Io non mi arrenderò adesso che stiamo per chiudere. Io mi ricordo una scena della settima serie in cui Jon Snow con, come si chiama lei? Daenerys Targaryen. Daenerys. Allora gli fa, mentre si sveglia, Dany la chiama. E lei lo guarda malissimo. Dany chi? Oh, ma che so, tua sorella? Ma che è una serie televisiva? Quella scena è l'angolo patetica. Del dilettante. No, no, guarda. No, diciamo che le ultime stagioni sono andate un pochino più sullo spiccio, ecco, non erano proprio fatte bene come le prime. Cotto, però insomma, ma buona la prima. Sì, però siamo alla settima stagione, qui stanno arrivando finalmente i non morti, cioè sono sette stagioni che aspetto i non morti. Stanno arrivando, sono terribili, eh. Sì, ma li avete mai visti? Terribili. Voi? Mamma mia, brutti. Sì. Ti raccomando. Ecco. No, no. Gloria è stato trasmesso su Rai 5 in settimana, confermo. Molto bello. Mentre Petra, delicato protagonista dei romanzi gialli della scrittrice spagnola Alice Gomez Barlet. Ciao Alessandra, la nostra cara ascoltatrice. Puntualissima, brava, esatto. Infatti sono racconti in cui tra l'altro lei è un detective molto ruvido. Cioè lei è una donna ma è molto antipatica, diciamo, molto, molto dura. Infatti è interessante che lo faccia Paola Cortellesi, che invece nel nostro immaginario ha un'immagine da simpatica. È sempre la persona affabile, alla mano. Quindi è forte che lo faccia lei. Io già ho visto le prime foto, cioè già la faccia dura. Già vedi subito che non è il suo solito personaggio. Ma lei la faccia... è brava comunque, sa fare cose spiritose e cose serie. Sono contento che le facciano fare una cosa diversa dal solito. Qui vedremo... Chiedi a Vasquez, oh, qui domande a Raffica, chiedi a Vasquez di Punk, la serie documentario di, con Iggy Pop, di Iggy Pop, il battibecco con, tra Johnny Rotten e l'ultimo Ramon rimasto. Devo dire, non l'ho vista, mi hai messo una grande curiosità con questa cosa, no? Non l'ho vista. C'è stato il battibecco, c'è stato. Su cosa? Non lo so, l'ho visto oggi di sfuggita mentre venivo qui, pochi minuti. Ma poi è strano che non mi sembrano due litigiosi, no? Johnny Rotten, sì. Che cosa potrebbero avere? Aspetta, ti dico, vediamo se riesco a trovarlo. Allora, il punk non è morto. Violenta leader da Johnny Rotten e Marky Ramone. I due membri di Sex Pistols e Ramone si sono scontrati alla presentazione del documentario. Alcune velenose ostilità non muoiono mai, ma come il punk. Alla presentazione di Los Angeles della docuserie Punk, prodotta di hip hop, è andata in scena un'aspra leader dei due protagonisti. Il frontman dell'Iconian Band inglese ha attaccato il collega sul significato del movimento connesso agli ideali politici in riferimento a quello che hanno fatto i rispettivi gruppi durante la loro carriera. E poi insomma prosegue. Certo, l'hai messo insieme nella conferenza stampa. Volevi questo, volevi, cioè, sì. Però sai, hanno un'età. Beh no, però a una certa età comincia a sclerare. Perché poi non è che abbiano fatto loro una vita tranquilla. Sì, sai, esatto, cioè, non è che sai, stai tranquillo. Casa e chiesa, un bicchierino solamente il sabato, no? Prendiamoci, c'è una cannetta per, no? Per brindare, mi bagno le labbra per brindare. Appunto. No, si sono dati uno dell'idiota, Johnny Rotten ha dato dell'idiota a Marky Ramone. Dopodiché Marky Ramone gli ha dato dell'alcolizzato a Johnny Rotten. Sei un fottuto alcolizzato. Un fottuto alcolizzato. Detto da lui, Beh, sì, detto da lui. Ma... è il bue che dice cornuto all'asino in questo caso. Vabbè, basket. Ma questa musica qui, chi la fa oggi? Questo Hold On I'm Coming? Io dove posso trovare una cosa di questo tipo oggi? Solamente a Radio Elettrica, caro mio. Mi dispiace. No, ma chi un musicista che oggi compone questo tipo di musica? Io dove lo trovo? Il soul, rhythm and blues. Così, con questo tiro. Ma poi, non esagerare. Cioè, ce ne sono comunque, dai, ce ne sono. Sì. Cioè, abbi pazienza, ce ne troverai. Ne troverai anche. No, ma dammeli, cioè. Ti mando la lista? Beh, sì, questa roba proprio così, con sto tiro. Ti faccio una lista. È antico Vasquez comunque dentro. Beh, sì, un po' sì. Un po' polveroso, un po' castaldo. Ma tu vieni a vedere, anzi, ad ascoltare il disco dei Beatles qui, sul nastro. Quando, aspetta, fermi tutti, quando? Te lo dico subito, aspetta. Io non sapevo nulla di questa sabato, iniziativa. Sabato 23. Ah, aspetta, ti dico anche altro. Aspetta. Disco del 1967, Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. Babam. Attenzione, oh Magical Mystery. No, Sgt. Pepper. È una notizia che è uscita adesso, la diamo adesso. Ok. Tra due sabati. Orario? 16:30. Alle 16:30 me lo segno. Allora, voglio sapere subito due cose. Sì, di. Il disco come è stato registrato? Cioè, stiamo parlando di un disco che è stato registrato stato dell'arte. No, non hai capito. No, non mi sono spiegato, non è che vieni a sentire il disco qui. Qui vieni a sentire il nastro. No, ma infatti originale. Aspetta, come il nastro originale? Cioè, no, il master. No, il master, quella appunto. 8 tracce. Sarei miliardario. Infatti, ho preso un colpo, non metto originale. No, il nastro, ok. Il nastro originale. No, ma ci a sto. Due tracce. Cioè, il nastro dell'epoca. Voglio sapere se è stato registrato bene in generale. Cioè, magari non tutti i dischi vengono registrati bene. No. È una registrazione come si facevano una volta. Ok. Cioè, dall'8 tracce. Credo che il Sgt. Pepper fu su 8 tracce. Su 2 8 tracce, però non ricordo. Beh, 8 tracce vuol dire che suonavano tutti insieme o suonavano separati? 8 tracce vuol dire che registravano su una, poi registravano sulla seconda, quindi registravano separati. Sulla terza, prima sulla il basso, quarta, poi la chitarra, sulla quinta, così. Poi li missavano e li mettevano sulla traccia vuota. Ok. Quindi di 7 tracce, cioè di 6 tracce ne facevano 5. Poi ne registravano 5, 4, 3, 2, capito? Facevano tanti canali che missavano insieme finché si poteva. Aspetta, poi... quindi questo vuol dire che suonavano separati? O no? Sì, suonavano separati. Okay. Spesso e volentieri, no, questo non te lo so dire su questo album, okay. Non te lo so dire, spesso suonavano tutti insieme, però all'epoca si suonava, cioè suonava la batteria la mettevano su 6 canali, sì. E poi una volta missati 6 canali lo mettevano su un canale solo. Sì, è chiarissimo. Ok, poi prendevano il basso, la chitarra e la mettevano in due, diventava un canale, quindi diventavano un nastro a, che ne so, 5 tracce invece che 6, 7, 8, quelle che erano, capisci? Registravano per discesa. Sì, ho capito. E poi tutta questa cosa veniva missata, naturalmente con i mixer analogici, sui nastri a bobina, certo. Che vendevano come vendevano i vinili, i 45 giri. Si vendevano comunque poco all'epoca i nastri. No, beh, c'erano un sacco, c'erano tanti di registratori a bobina. Ok, perché non li vedo mai, cioè, nei film in cui fanno vedere le case dell'epoca, mai i nastri. Erano vendutissimi. Oh, e quindi avrei modo di ascoltare per la voglio sapere volta. Su che impianto, voglio sapere innanzitutto. Vuoi che ti porta a vedere l'impianto che sta qua dietro? Allora, prima di tutto voglio capire il valore dell'impianto. Perché il valore dell'impianto, mi chiami Mauro, per favore. Chiami Mauro. Qui no, tu mi stai sfidando. No, voglio capire, cioè, se vale la pena che io mi muova da casa mia. Adesso, intanto l'hai mai sentito? Senti come strilla. Oh. Buonasera Maura. Mauro, come stai? Sì, Maura. Maura dopo. Come stai, Mauro? Bene, grazie. Tu? Va bene. Allora, qui c'è un dibattito acceso sulla l'iniziativa che faremo tra due sabati. Cioè? Con i... Come cioè? Sul sì, nastro dei Beatles, Sgt. Pepper, eccetera. Gabriele afferma... No, che affermo? Chiedo. Chiede. Ma io ho un sacco da fare tra due sabati... Devo essere sicuro che l'impianto sia all'altezza del disco dei Beatles. E io ho replicato: guarda che noi qui non è che giochiamo a biglie sulla sabbia, per non dire altro. Mauro, a te l'onere e l'onore di spezzare le reni a Gabriele. Faccio una domanda, Gabriele. Di che anno è quella registrazione? Del 1967. Qualitativamente, secondo te, quella registrazione, qualitativamente, sì, sì, sì. Non a livello artistico. Certo, certo. Qualitativamente, come può essere? Allora, ecco, questa è la prima domanda che ho fatto a lui, perché io non lo so. Ho chiesto a lui, era una buona registrazione oppure no? Quello è presa dal master, è uguale al master, ma comunque qualitativamente tutte le registrazioni di quel periodo soffrono delle limitazioni di registrazioni fatte negli anni 60. Beh, però quelle Kind of Blue, per esempio... O i dischi, i nastri di Frank Sinatra, quelli erano, sono belli, quelli di Henry Belafonte, sono bellissimi i nastri, si sentono meravigliosamente bene. Quelli hanno vinto. Dovresti parlare vicino al microfono. No, no, allora, qualitativamente sono delle registrazioni che comunque hanno dei limiti. Ok. Tutte quelle registrazioni di quel periodo. La senti al top, perché con la bobina e con un nastro dell'epoca è il massimo che si possa sentire, cioè meglio di così non si può. È impossibile, ok. È impossibile. Poi con tutti i limiti di una registrazione degli anni 60, questo è chiaro, no? È palese. Penso. Perché poi ricordiamo, il nastro è stato riversato in digitale, cioè le tracce che avevano i Beatles o comunque la casa discografica, li hanno riversati in digitale e ne hanno fatto dei CD, certo. Per cui hanno rimixato completamente tutto, secondo me, posso dire la mia, distorcendo quello che era lo spirito e l'intenzione musicale di George Martin, perché poi era lui, no, dell'epoca, ma non solo di George Martin, ma anche degli artisti, perché loro che cosa hanno fatto? Come ti spiegavo, le registrazioni di allora si basavano su questa tecnologia, cioè registri la batteria, c'è un nastro da 8 tracce, registri la batteria su 7 tracce, la mixi e la metti sull'ottava traccia. Quindi ne rimangono 7, registri chitarra e ba. Quindi loro avevano inventato, non loro, ma gli ingegneri del suono avevano inventato questa tecnica, perché all'epoca i 16 piste, ancora non ricordo se già esistevano nel 66, ma credo nel 70 è arrivato il 16 piste. No, anzi, nel 70 credo sia arrivato l'8 tracce. Non vorrei dire una stupidaggine. Forse quelli sono fatti. Dovresti sempre parlare vicino al microfono. Che sta una sicuramente radio. Queste diciamo sono registrazioni che, ripeto, lasciano il tempo che trovano. Fermo restando. Ma che io non sono d'accordo. C'erano dei tecnici del suono, Martin, Rudy Van Gelder. Tu hai citato straordinari. Straordinari che utilizzavano dei microfoni Neumann. I primi Neumann sono stati utilizzati sia da Martin che da Rudy Van Gelder per quanto riguarda il jazz. Cioè qui però adesso apriamo un mondo. Ovviamente, ripeto, quello che noi sentiamo è quanto di più aderente a quello che è stato fatto all'epoca, cioè è di più aderente e qualitativamente migliore. Ok. Più di così non si può. Voglio sapere un'altra cosa. Io che sono una persona arida, una persona di denaro proprio. Il valore dell'impianto in cui lo sentiremo. Allora, l'impianto in cui lo sentiremo è un impianto un po' d'epoca, perché è inutile sentirlo con un impianto, diciamo, del momento. Utilizzeremo delle casse fatte dalla ESB, la serie 7, che è una serie degli anni 70-80, fine anni 70, inizio anni 80, che era il top della produzione dell'epoca. Ok. Progettate dal grandissimo ingegnere Renato Giussani, a cui è dedicata anche la sala dove l'ascolteremo, con un impianto all'altezza. Se io lo volessi comprare tutto questo impianto da zero, non ho niente e voglio comprare questo impianto, quanto mi costerebbe? Non lo troveresti. Certo. Non lo troveresti, perché è un impianto rispetto d'epoca. Tieni conto che la serie 7 all'epoca era il top della produzione italiana, oggi come oggi potresti andare su un discorso di 15.000 euro. Okay. Cioè per comprare l'equivalente di un apparecchio, di diffusori oggi quindi solo diffusori stiamo parlando, solo cioè, diffusori poi ci diciamo sarà, diffusori no. e amplificatori. Okay. Poi ovviamente il lettore CD, cioè scusami, il registratore è un registratore d'epoca, che è un Revox, che era al top dell'epoca. Qui parliamo di sempre dell'epoca, perché i registratori a bobine praticamente non li fanno neanche più, non so neanche se Revox faccia qualcosa ancora. No, assolutamente. Quindi, cioè, stiamo a cavallo di quegli anni lì con un ascolto, diciamo, al top di quel periodo. Chiaro, chiarissimo. Okay. Quindi tu sentirai finalmente il suono, il vero suono che non hai mai ascoltato, perché tu hai ascoltato in realtà Sgt. Pepper da CD che sono stati completamente rimissati e stravolti, certo, dal punto di vista proprio dell'acustica, del suono, perché sono stati adattati alla tecnologia di oggi. Per cui quello che era tutta la filosofia, lo spirito, la cultura di allora e anche la tecnologia di allora, tu non l'hai mai sentito. Quindi in realtà tu hai sentito fino a oggi un disco ibrido. In realtà tu il vero disco di Sgt. Pepper non l'hai mai ascoltato. Chiarissimo, chiarissimo. E verrò e lo registrerò col mio cellulare. Quindi, per chi vorrà venire ad ascoltare questa cosa un po' particolare, sabato 23 alle 16:30, noi siamo qui a Radio Elettrica, nella sala Giussani, che si trova qui a fianco. Naturalmente i posti sono limitati perché la sala è piccola, ci entreranno 15-20 persone, quindi prenotatevi per tempo. Ti vuoi prenotare? Devo consultarmi col mio general manager. Ah, okay. Però quando. Vabbè. Ma questo è una formalità, cioè immagino. Non è che sia vincolante. La una moglie. Formalità. La moglie. Sì. No, mi spezza le gambe. Avevo capito perfettamente. Ah, beh, certo. Lo so. Il mio azionista di maggioranza. Però comunque è una formalità. Chi ecco. Comanda a casa. Un passaggio tecnico. Buonasera a tutti. Grazie, Mauro. Grazie. Sei soddisfatto delle risposte? Direi proprio di sì. Allora, salutiamo Vasquez, grazie, Gabriele, sì, Mauro, sto nel pallone. Vabbè, da stamattina alle 5 sto in giro per autostrada, non ce la faccio più, anzi, lavoro, poi autostrada, insomma, all'ira di Dio. Mi suona anche il telefono. È Dario, guardate tu, Dario. Dario, sono in diretta, devi aspettare un secondo, mando un disco. Aspetta, ti metto in diretta. Eccoli. Stavi sentendo la radio? Buonasera a tutti, sì. Ciao. Oh, ci sei? Sì, sono qua. Che volevi dire, da? No, volevo dire al buon Gabriele che lo abbiamo già fatto rosicare una volta e gli abbiamo fatto sentire Emerson, Lake & Palmer sul naso, quindi se viene lo facciamo rosicare per l'ennesima volta. Senti, come ne parliamo un attimo in privato, adesso mando un brano perché mi devi ragguagliare su quei nastri. Va bene. Rimani lì, non ti muovere. Un abbraccio. Ciao Dario. È il mio socio. È veramente un losco traffico, un losco traffico di nastri, cioè dove te li consegna? Al porto, ci vediamo al porto. A mezzanotte al porto. Grazie Vasquez. Ci vediamo. Se tutto va bene, la prossima settimana. Ciao. Ciao.